Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e tredici minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo del rapporto Istat, che già i nostri GR24 oggi hanno avuto una sospensione per motivi di assemblea sindacale, ma alle 13 e alle 16 hanno ricordato, e cioè l'Istat ha scorporato l'andamento economico del paese dividendolo per le macro aree nord-est, nord-ovest, centro e sud, per vedere come è stato il contributo al PIL complessivo del paese l'anno scorso. Chiaramente parliamo del 2016. Ebbene, la cosa interessante è che dopo anni in cui il sud restava ampiamente al di sotto della media, e quindi il contributo più grosso alla crescita economica, quel poco di crescita economica quando c'era, di questi anni arrivava dal nord e un po' dal centro, per quello che riguarda il dato del 2016, la cosa positiva è che anche il sud è in linea con il resto del paese, più 0,9% il contributo del PIL, quanto è cresciuto il PIL nel nostro mezzogiorno, addirittura superiore al centro Italia, più 0,7%, e al nord-ovest più 0,8%. Il contributo maggiore lo dà il nord-est, più 1,2%. Ci occuperemo anche del nord-est, perché in questi anni abbiamo visto crescere meglio il nord-ovest che è il nord-est. C'è una certa sofferenza nelle regioni centrali, nel centro Italia, dove anche il mercato del lavoro è aumentato meno della metà rispetto alla media nazionale. Se infatti andiamo a guardare l'occupazione, è cresciuta nel nord-est dell'1,8%, del mezzogiorno dell'1,6%, del centro, nel centro la crescita non va oltre lo 0,6%. Però insomma, questo è un dato positivo, perché è chiaro che manca ancora molto per il recupero del nostro mezzogiorno, ma almeno non continua a ampliarsi la distanza con il resto del paese, e invece va leggermente a ridursi, e ne parleremo nella seconda ora del programma. Fermo restando che il ministro Calenda ha detto, mi avviso giustamente, poi lo so che dite che sono sempre d'accordo con Calenda, i dati restano insufficienti per generare un benessere diffuso e una crescita che possa rendere sostenibile il debito poderoso che abbiamo. Siamo contenti, ha detto Calenda, di non essere più dove eravamo. Abbiamo avuto una doppia recessione, perché l'Italia si è beccata con altri paesi dell'area euro, sia quella del 2008 che quella del 2010, e più pesante di tutti gli altri paesi europei. Abbiamo iniziato a recuperare, il percorso è molto lungo e complesso. E appunto i dati restano insufficienti nonostante il miglioramento. Parleremo delle banche venete, perché forse dovremmo esserci anche sulle banche venete. La scadenza per la presentazione dell'offerta, l'advisor del tesoro ha visto appunto farsi avanti Intesa. L'advisor del tesoro era Rothschild. Deliberata la disponibilità a rilevare le good bank nate dalla separazione delle attività problematiche di Veneto Banca e Popolare di Vicenza rispetto alle altre. Parleremo anche in apertura di trasporti, nel doppio senso che c'è oggi, è in corso il G7 a Cagliari sui trasporti, e ne parleremo sia con il nostro inviato a Cagliari, ma anche con l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini, dove allargheremo anche il ragionamento a quello che è il ruolo delle Ferrovie dello Stato, non solo nel riqualificare gli scali ferroviari, pensate che solo a Milano valgono 1.300.000 metri quadrati, oggi firmato un accordo con un investimento delle Ferrovie dello Stato di circa 50 milioni, ma anche per quello che riguarda gli altri, il ruolo delle Ferrovie dello Stato nella metropolitana, nella M5, di cui ha comprato il 37%, e la, diciamo, fusione con l'ANAS, oltre che alcune altre diciamo, progetti in corso. Mi riferisco in primo luogo al completamento dell'alta velocità della T su Milano-Venezia, e poi l'alta capacità da Venezia a Trieste. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e ricordo che il programma è trasmesso in video anche sul nostro sito e sulla pagina Facebook. Partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Resta fermo a livelli bassi il petrolio, $42,7 al barile WTI. Per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, oggi ha detto semplicemente che proseguirà con il programma di quantitative easing da 60 miliardi al mese, quindi acquisto di titoli di Stato e immissione di liquidità nell'area euro almeno fino a dicembre. E ha sottolineato come i mercati finanziari dopo le elezioni francesi, le doppie elezioni sia presidenziali che parlamentari, siano in recupero, cioè siano più tranquilli. Poi hanno preso via il lavoro del vertice dell'Unione Europea, il primo con Macron. I temi in agenda sono moltissimi: migranti, difesa comune europea, terrorismo e anche commercio internazionale. Oggi Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, ha detto che l'Italia può continuare a contare sulla solidarietà europea. Vedremo, perché la sessione si articola prima a 28, compresa la Gran Bretagna, e poi a 27, perché la Gran Bretagna esce dalla sessione. Tra l'altro la premier britannica Theresa May deve presentare la sua proposta sui diritti dei cittadini, quindi i diritti di circolazione dei cittadini dentro anche all'interno della Gran Bretagna. Vedo molti commenti sui dati dell'Istat. Allora ascoltiamo il commento su questo, sui dati che vedono crescere bene il nord-est più 1,2%, il sud che recupera in linea con l'Italia, un po' più al palo il centro. Dicevo, su questo si concentrano i 100 secondi da 24 al Sole 24 Ore. Oggi a firma del vice direttore Alberto Rioli, ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. C'è un sud che non sappiamo raccontare o che forse non sa ancora raccontarsi. È quello che emerge, ad esempio, dalle stime preliminari diffuse oggi dall'Istat sul prodotto interno lordo diviso per aree territoriali. Nel 2016 al sud il PIL è cresciuto dello 0,9% in linea con la crescita media nazionale. Il record spetta al nord-est, dove il balzo è arrivato all'1,2%. Ma il mezzogiorno è andato meglio del nord-ovest e del centro, dove la crescita si è fermata rispettivamente a più 0,8 e più 0,7%. È chiaro che il prodotto interno lordo del sud è molto più basso ed è letteralmente precipitato durante gli anni della recessione fino a risultare fino al 40% inferiore rispetto a quello del nord, ma comunque se si guarda alla visione dinamica di ciò che accade dobbiamo prendere atto che anche nel mezzogiorno si deve segnalare un risveglio. E può essere decisivo, visto che sarà proprio la riscossa del sud a far migliorare l'intera performance del nostro paese, che certo non può pretendere tassi di crescita monster dalle aree del nord che già risultano tra le più virtuose anche in Europa. È un buon dato anche quello dell'occupazione, che segnala un aumento dell'1,6% al sud, di poco inferiore all'1,8% realizzato sempre nel nord-est. E ciò che colpisce ancora di più è che nel mezzogiorno sono cresciute l'industria e il commercio, con i servizi legati soprattutto al turismo e alle telecomunicazioni, mentre nel nord-est invece, oltre all'industria naturalmente, è cresciuta anche l'agricoltura. Forse è presto per dirlo, ma davvero questi numeri per una volta fanno pensare a un cambio di passo che può portare lontano, e comunque sperarci è già un modo per cambiare la narrazione e le aspettative sul nostro mezzogiorno. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Andiamo sulla borsa adesso, perché parliamo di Italia, restiamo sull'Italia. Allora, Milano perde lo 0,60% in questo momento, Francoforte più 0,20%, Dow Jones, Parigi più 0,17%, Londra in questo momento perde lo 0,11% e il Dow Jones guadagna lo 0,16%. perché Milano cede più di altre borse, anche se stiamo parlando di cali non drammatici. Non c'è un motivo trainante oggi in tutto il mercato. Abbiamo ST Microelectronics che perde il 2,26, Banco BPM il 2, Unicredit l'1,70, Azimut l'1,60, Unipolsai l'1,5, Finecobank meno 1,5, come Telecom Italia, Poste Italiane meno 1,30, Campari meno 1,20. Non sono fortissime le banche, ma non sono neanche così deboli tutte. Intesa San Paolo, per esempio, continua a guadagnare dopo l'annuncio sulle Venete. Oggi porta a casa un altro 0,80%, Fiat Chrysler più 2,60%. E veniamo sempre sui temi italiani ai fondi europei. Dunque, oggi intervenuto alla manifestazione per i 100 anni dell'Unione Industriale di Napoli, il ministro per le politiche di coesione territoriale De Vincenti ha detto: lunedì e martedì andrò a Bruxelles e spiegherò che l'Italia è pienamente in regola con gli standard dell'Unione Europea quanto a fondi spesi. La storia dei compiti a casa deve finire, siamo in linea con il 10% dei fondi strutturali spesi al 31 dicembre e al forum sulle politiche di coesione, i fondi europei sono destinati per, si chiamano politiche di coesione perché vogliono portare a media dell'area euro anche le regioni più depresse, penso al nostro Mezzogiorno, penso a altre parti della Spagna, del Portogallo e della Grecia, e si chiamano appunto fondi di coesione per creare coesione. E dice: al forum sulle politiche di coesione dirò che l'Italia è uno dei tre grandi paesi fondatori dell'Unione Europea e che siamo in regola su tutta la linea. Sui fondi 14-20 noi siamo oggi a un'attivazione di risorse per oltre il 30% e siamo tra i paesi più avanzati in Europa. Quindi io non vorrei continuare a sentirmi dire che dobbiamo sempre fare i compiti a casa. La storia dei compiti a casa ha da finire. L'Italia è uno dei tre grandi paesi fondatori e deve giocare il suo ruolo. Naturalmente per giocarlo deve essere in regola su tutta la linea. Oggi noi siamo in regola su tutta la linea e diciamo la nostra a Bruxelles. Io andrò a dirla lunedì e martedì prossimo, perché avremo il forum sul futuro delle politiche di coesione. Noi dobbiamo farci sentire, qui c'è stato un contributo molto importante di Confindustria Nazionale, ci ha sostenuti nel portare avanti, e noi porteremo lunedì a Bruxelles una posizione condivisa con Confindustria, con i sindacati, con le regioni e con i comuni, una posizione come paese per rivendicare che le politiche dopo il 2020, le politiche di coesione andranno rafforzate, non indebolite come vorrebbe qualche altro paese, specie del nord Europa, vanno rafforzate perché sono un segnale forte di un'Europa che guarda i bisogni dei suoi cittadini. E sul tema, sempre al centenario dell'Unione Industriale di Napoli, anche il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, che dice i fondi post 2020 devono essere alla base del rinascimento industriale europeo e la trattativa con Bruxelles deve essere al primo posto nell'agenda del governo. La questione industriale è anche europea. A tal proposito auspichiamo che sia ora sia dopo il 2020 i fondi strutturali possano essere la base del rinascimento industriale europeo. Un'Europa mercato più ricco del mondo, che occorre difendere rendendo l'industria europea sempre più competitiva. È determinante che il governo metta questo obiettivo al primo posto del negoziato sul bilancio europeo post 2020. In particolare è necessario dotare la politica di coesione di risorse adeguate per tutte le regioni, tenendo conto delle specificità e dei bisogni di ciascuna di esse. Ancora, visto che qualcuno mi dice, attenzione Calenda, guarda Calenda, a parte che io quando non sono d'accordo lo dico, ma posso dire che mi piace un ministro ogni tanto? Calenda è competente sui temi, conosce i temi e spesso mi trovo, senza avere nessun problema diciamo così etico, d'accordo con lui. Calenda oggi, il ministro Calenda era ospite di Alessandro Milan e Oscar Giannino, attenti a noi due questa mattina a Radio 24. È intervenuto su vari temi. Intanto ha detto che non riesce a spiegarsi come mai sia stata bloccata la legge sulla concorrenza. Tant'è che lui ha chiesto di ritirare i 4 emendamenti di esponenti del PD in modo da approvare il testo e evitare il ritorno in Senato in quarta lettura, perché ogni volta che modifichi la legge alla Camera o al Senato deve tornare nell'altra Camera. E ha definito un calvario il provvedimento del decreto sulla concorrenza. Non me lo riesco a spiegare, anche perché ricordo che questa legge, che doveva essere annuale, è stata varata dal governo Renzi, non è una mia legge, 851 giorni fa. Quando io sono diventato ministro potevo scegliere due strade, quella di ritirarla o quella di portarla avanti. Ho scelto quella di portarla avanti perché per me è molto importante che l'Italia dia il segnale che un obiettivo, cioè la legge annuale, non dico che la porta a casa in un anno, ma insomma in tre mi pare ragionevole. Lì è iniziato un calvario. In Italia non si sa perché la concorrenza è considerata una cosa che può danneggiare chi la porta avanti dal punto di vista politico. Io credo che sia esattamente l'opposto, perché dove non c'è la concorrenza ci sono le rendite. Siamo arrivati con grande fatica, abbiamo provato al Senato, è andata alla Camera. Ci sono 4 emendamenti che sono 4 emendamenti del PD che sono sostanzialmente chiarificatori e non sostanziali, dove io ho dato l'impegno del governo a risolvere queste 4 questioni in vario modo e ho chiesto che si ritirino gli emendamenti. Io spero che si faccia in maniera che si approvi una volta per tutte in aula la versione al Senato e che non si ritorni un'altra volta al Senato in quarta lettura, perché sarebbe una pessima immagine, ma daremo anche l'idea che veramente non riteniamo la concorrenza, come invece io ritengo, un grande elemento anche di equità sociale. Allora io spero proprio che il PD non si trasformi dal partito che voleva rottamare le rendite e le caste al partito che rottama invece la concorrenza, perché sarebbe un'immagine pessima, credo. Allora, su questo lo dico a chi mi scrive: guardate che la concorrenza, io non so perché alcuni la leggano solo come elemento negativo, se la concorrenza è regolata e dà la possibilità a tutti di giocare sullo stesso campo da gioco, la concorrenza è utile non solo a noi come cittadini clienti, perché se ho dei fornitori di servizi che sono in concorrenza tenderanno a trattarmi meglio che non chi è monopolista, oligopolista o vive di rendita di posizione, ma va a vantaggio anche di chi la fa la concorrenza, perché si mette in gioco e vince, dovrebbe vincere il più bravo, quello che offre il servizio migliore, non quello che vive di rendita, ok? Allora, perché lo dico? Perché su questo ogni volta arrivano delle resistenze fortissime con l'idea che la concorrenza vada a impoverire. Non è vero, ci sarà qualcuno che vive di rendita, di posizione o di appunto di categoria e vedrà ridotta la sua renta di posizione, e ci sarà qualcun altro che al posto suo guadagnerà. Naturalmente quello che è successo alla Commissione Finanze e Attività Produttive della Camera è l'esatto opposto, cioè sono riusciti ad approvare le 4 modifiche dopo l'intervento di Calenda questa mattina, le 4 modifiche proposte dal PD su assicurazioni, energia, telemarketing e società di odontoiatri. E quindi il testo adesso dovrà tornare al Senato per la quarta lettura, tant'è che Calenda dopo nel pomeriggio si è pure seccato, ha detto: con tutto il dovuto rispetto per il Parlamento, la decisione di riaprire il DDL concorrenza a più di 850 giorni dalla sua presentazione in Parlamento è difficilmente comprensibile e rischia di trasmettere l'ennesimo segnale negativo ai cittadini, imprese e istituzioni. Tra l'altro si ritorna al Senato per 4 emendamenti con carattere di mera chiarificazione, cioè non andavano a cambiare il testo, no? Ma invece andrà alla quarta lettura in 3 anni, e quindi auguri al DDL concorrenza. Io lo so perché c'è una resistenza anche dentro il partito di maggioranza, perché gli emendamenti erano del PD, perché si ritiene che se tu apri la concorrenza a un settore, quel settore lì non ti voterà più. Però io dico una cosa molto semplice: in questo modo non si va da nessuna parte. Perché allora, se io ogni volta che apro un settore alla concorrenza devo pensare che perdo i voti da quella parte, magari li guadagnerò in chi entra in quel settore, potrà guadagnare in un settore protetto. Invece l'idea è sempre meglio non disturbare il can che dorme. Vale anche per la riforma del pubblico impiego, dei dirigenti della pubblica amministrazione, di tutto, cioè non si vuole mai correre il rischio di perdere voti. In questo modo il paese è fermo. Infatti speriamo un governo, quando arriveranno le elezioni, che non sia solo lì a guardare i sondaggi, ma vada avanti al di là dei sondaggi di breve termine. Andiamo avanti ancora con l'Alitalia, ed è l'ultima cosa che faccio ascoltare di Calenda per oggi, poi passiamo al tema trasporti, comunque, perché avremo ospite l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato e c'è il G7 a Cagliari sui trasporti. Calenda ha detto: non possiamo più mettere soldi pubblici in Alitalia, è la nostra priorità, la strada migliore è la cessione a stranieri, perché la prima è che, appunto, è che si spendano meno soldi pubblici possibili, che contemporaneamente i cittadini abbiano le rotte e i servizi, e quindi se non ci sono compratori italiani l'unica strada sono gli stranieri. La prima priorità per me è che si spendano meno soldi pubblici possibile e contemporaneamente i cittadini abbiano le rotte e i servizi, perché questa è la cosa che è importante, decisiva. Se questo si può fare mantenendo l'azienda tutta insieme, io sono ovviamente molto contento. Se lo si può fare cedendo l'azienda a un operatore internazionale, cosa che io credo sia la strada giusta, perché ovviamente l'Italia vivrebbe meglio avendo un operatore internazionale, bene, ma direi che la prospettiva è questa, cioè non, ripeto, noi non possiamo più mettere soldi pubblici in Alitalia, quello che devono fare è quello che è previsto nell'amministrazione straordinaria, cioè raccogliere le offerte che sono arrivate in un primo round, ovviamente mettere nella condizione migliore possibile dal punto di vista finanziario l'azienda in maniera che si spendano meno soldi pubblici possibili, che per me rimane l'obiettivo prioritario, e dopodiché cedere l'azienda. Allora, adesso parliamo, continuiamo a parlare di trasporti. Devo dare qualche risposta brevissima a chi scrive sulla concorrenza. Oggi lei è in versione liberista pro globalizzazione dei suoi connazionali ridotti in mutande senza tutela, chi se ne frega. E un altro scrive: perché però finora la concorrenza è stata la scusa per chiudere fabbriche in Italia e riaprirle all'estero con grande perdita di lavoro. Allora, vediamo di capirci. La concorrenza di cui parla il DDL concorrenza non è quella che subiscono le nostre imprese, subiscono, vivono le nostre imprese tutti i giorni, visto che fanno buona parte del fatturato all'estero e comunque la subiscono anche in Italia. Cioè, un'impresa privata normale è sempre in concorrenza sia con il vicino di Capannone che con quello che sta in Germania, in Francia o in Cina. Ci sono dei settori interni al paese invece che da sempre avevano una tradizione di monopolio e assenza di concorrenza. A chi mi dice, quindi non confondiamo la globalizzazione, diciamo, di merci e servizi con la concorrenza interna a un paese. A questi ascoltatori vorrei chiedere: ma preferivate l'Italia quando c'era un unico gruppo telefonico che si chiamava SIP e poi Telecom a gestire tutto? E o così o pomì? O la preferite adesso dove ci sono 3-4 gruppi che si sfidano a botte di offerte? Preferivate l'Italia quando c'era un unico? Così saluto e ringrazio per averci aggiunto in collegamento l'amministratore delegato alle Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini, buonasera anche a lei. Salve Barisoni. Preferivate quando c'era solo l'FS che gestivano tutto, binari e treni, o c'è anche un po' di concorrenza dentro l'FS? Preferivate il trasporto aereo quando c'era solo l'Italia a fare i prezzi che voleva e senza concorrenza delle low cost? Cioè, come cittadino che spendi soldi, io la voglio la concorrenza nel rispetto delle regole. Questo vale per Uber e per altri, cioè con lo stesso campo di gioco, ma la voglio la concorrenza, non voglio il monopolio. Ma dai, cioè, perché ma vi siete dimenticati quanto costavano i biglietti o le tariffe telefoniche prima che vi fosse la concorrenza? I settori dove non c'è concorrenza sono quelli in cui abbiamo ancora costi impropri. Io non ce l'ho con i notai, ma vorrei che anche i notai fossero in concorrenza ogni tanto. E ci sono tanti altri settori in cui la concorrenza non si sviluppa. Oppure fanno cartello, tant'è che abbiamo anche l'antitrust. Chiusa la parentesi sulla concorrenza. Mazzoncini, tanto so che lei non mi dirà, ma insomma, non è che fa anche bene poi agli operatori la concorrenza? Poi veniamo al vostro tema, agli scali ferroviari, gli ex scali ferroviari di Milano, all'obbligazione che avete lanciato alla metropolitana e quant'altro. Ma non è che la concorrenza fa bene anche a chi la subisce, tra virgolette, che diventate più efficienti? Sì, no, appunto, mi faccia dire che in realtà io sono totalmente favorevole alla concorrenza, anzi, in sede europea, visto che l'Italia è l'unico paese dei grossi paesi europei che ha lanciato da anni la concorrenza sulla lunga percorrenza ferroviaria, che adesso dal 2020 si aprirà a tutti i paesi. La Comunità Europea ha scelto di avere ora la competizione sull'alta velocità, diciamo, in tutti i paesi dal 2020. L'Italia è l'unico paese al mondo con la concorrenza sull'alta velocità e quindi dico sempre ai miei amici tedeschi e francesi che noi arriviamo sul mercato molto più forti di loro, perché abbiamo vissuto già una lunga esperienza di concorrenza che ha fatto bene. Oh, e questo vale anche per l'elettricità, qualcuno si lamenta che ce n'è poca, ok, allora chiedete più concorrenza, no? Più operatori che ti offrono servizio, e si fanno una guerra a costi, una battaglia sui costi e sulla qualità del servizio. Mazzoncini, resti con noi perché oggi voi avete fatto nell'ordine un accordo per riqualificare 9 ex scali ferroviari Milano che valgono su un'area che vale 1.300.000 metri quadrati e ci avete messo 50 milioni. E poi avete annunciato la nuova obbligazione delle Ferrovie dello Stato senior a 8 anni che vale 1 miliardo e, se ho ben capito, avete domande per 1 miliardo 800 milioni. E anche questo è un modo interessante, vuol dire che il mercato vi vuole comprare debito, questo è poi un'obbligazione. Poi parliamo anche della metropolitana Milano e dell'ANAS. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. minuti. Allora, dottor Mazzoncini, oggi l'accordo che avete presentato con un investimento vostro per 50 milioni di euro, a cosa servirà? Si chiama riqualifica dei 9 scali ferroviari di Milano, 1.300.000 metri quadrati. Beh, è un accordo storico che stavamo perseguendo dal 2005, quindi da 12 anni. E che porterà a una delle più grandi riqualificazioni urbanistiche in Italia e in Europa nei prossimi anni, ed è a Milano. Sono 7 scali ferroviari per un totale di 1.250.000 metri quadrati che in buona parte sono abbandonati da anni, perché l'efficienza e l'automazione del sistema ferroviario oggi ha portato a una riduzione enorme degli spazi necessari per far girare i treni. E di questi 200.000 metri quadri rimangono destinati, con tutta una serie di ristrutturazioni, a spazi ferroviari. 650.000 metri quadri vanno a verde pubblico, quindi con una iniezione di una boccata di ossigeno per la città di Milano incredibile, e la restante parte sono... Quanti a verde pubblico, mi scusi? 650.000 metri quadrati. E la restante parte sarà edilizia, in parte per servizi e in parte per nuove abitazioni, tra l'altro con un mix tra edilizia libera, social housing e edilizia diciamo a prezzi calmierati, che consentirà a Milano di mantenere il mix che è un po' storico, no? Di una città dove tutte le classi sociali vivono e lavorano e producono insieme, e che è un po' lo spirito con cui sta crescendo Milano in questi anni, e questa operazione sarà un'operazione straordinaria, anche di ricucitura del territorio. No? Allora, gli scali interessati sono Farini, Romana, sì. Porta Romana, Porta Genova, San Cristoforo, Greco, Lambrate e Rogoredo. Esattamente. I soldi che voi mettete a cosa serviranno innanzitutto? Beh, allora, i soldi che noi mettiamo due categorie di soldi. Mettiamo 34 milioni di euro per delocalizzazione, cioè spostare alcune linee ferroviarie che oggi intercettano gli scali, e quindi rendere più efficiente la circolazione, diciamo, ferroviaria all'interno della città. E poi mettiamo 50 milioni di euro minimo, perché potrebbero crescere in funzione di come vanno poi le vendite delle aree, per la riqualificazione delle quindi sono di stazioni. Più di 50, sono 50 più 34? Sono 50 più 34, più eventualmente altre risorse ulteriori che potrebbero essere legate a maggiori plusvalenze che potrebbero uscire dall'operazione. Fondamentalmente, per spiegarla agli ascoltatori in maniera semplice, l'accordo è questo: si prendono delle aree che erano scali abbandonati, si restituiscono alla città dando una ricucitura importante del territorio. Pensate che solo lo scalo Farini sono 600.000 metri quadri, quindi immaginatevi un'area così gigante in centro alla città, che razza di buco urbanistico crea. E lo si fa favorendo il verde pubblico, le costruzioni verticali, quindi con le esperienze recenti di Milano, e con un grande sviluppo del trasporto urbano ferroviario all'interno della città, con importanti collegamenti per esempio tra le stazioni ferroviarie e le metropolitane. Per esempio ho citato prima San Cristoforo, dove c'è un impegno nostro di 20 milioni di euro sia per la realizzazione di una parte di verde pubblico e sia per il collegamento tra la stazione San Cristoforo e la linea 4 di Milano, che transiterà anche da lì. Allora, vedo che qualcuno sta criticando, non capisco perché scrive il 10%, per carità, perché la parte di verde non è il 10%, è il 2/3, 650.000 metri quadri su 1.300.000 metri quadri, a casa mia sono allora, i metri quadri che vengono tolti dall'attività ferroviaria è 1 milione di metri quadri, perché gli altri rimangono ad attività ferroviaria, quindi quelli che vengono riconvertiti per la città, per l'urbanistica, sono 1 milione. Di questo milione il 65% diventa verde pubblico. Nell'accordo degli scali che nel 2015, fine 2015, non fu ratificato dal Comune di Milano, era 53% il verde pubblico e con la giunta Sala siamo saliti fino al 65%. Quindi noi restituiamo alla città 1 milione di metri quadri, del nostro 1.200.000, 250.000 li teniamo per le attività ferroviarie, e di questo milione il 65% diventa verde pubblico. Allora, dopo il traffico mi deve spiegare cos'è la Circle Line, e poi su Milano, e poi chiudiamo su Milano e andiamo invece sul sistema complessivo dei trasporti in questo paese, ci collegheremo anche con Cagliari, dove c'è il nostro inviato al forum del G7, ha parlato il ministro Del Rio di G7 sui trasporti, e poi la userò, non se ne abbia Mazzoncini, come filo rosso trade union, anche per l'ultimo tema, visto che parliamo del nord-est, del grosso contributo che ha dato al PIL nel 2016, vorrei capire a che punto siamo sull'alta velocità Milano-Venezia, poi Venezia-Trieste sull'alta capacità, perché insomma la T è una T ancora incompleta. Traffico. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Allora, ingegnere Mazzoncini, in quanto amministratore legato alle Ferrovie dello Stato, che cos'è il progetto invece di Circle Line, un semianello ferroviario, ho capito bene, sempre su Milano? Sì, bravo, direi che prende il nome appunto dalla forma circolare che assume questo anello ferroviario. Come sapete, tutti quelli che stanno a Milano usano i trasporti, Milano ha un passante ferroviario che attraversa la città un po' come una mela. Diciamo che intorno a questo passante, partendo da sud, quindi da sud-ovest e quindi da Porta Genova e dalla stazione di San Cristoforo, entra questa Circle Line che assume un semicerchio in senso antiorario e quindi va verso Porta Romana, verso Lambrate e poi sale in delle linee esistenti verso le stazioni di Derniano, appunto la nuova stazione da sviluppare o la stazione Stevenson, passando tramite Certosa e costituisce un anello ferroviario con servizio di tipo metropolitano, cioè il tipo di servizio che i milanesi hanno imparato a utilizzare nel passante. Quindi, pur essendo dei treni che arrivano e che sono sulla media lunga percorrenza, sono treni che svolgono fermate con cadenza diciamo di 1 chilometro e con frequenze. Ma assomiglia un po' a Parigi, quando diciamo la differenza tra metropolitana, cittadina e la parte e la RER. È un po' così. Senta, a questo proposito, però, questo. Perché siete entrati nella linea 5 della metropolitana milanese? Ci avete messo 65 milioni, avete rilevato il 37% della M5 SPA, rilevando anche la quota di Astaldi, la totalità. Ma, no, insomma, non la totalità, la abbiamo quasi rilevato, totalità. Vabbè. Sì, esatto. Però dico, questi soldi non potevano essere spesi per la nostra rete ferroviaria e lasciare che la M5, penso alla rete regionale, alla rete locale, alle stazioni, molti mi scrivono perché avete eliminato le sale d'aspetto nelle stazioni, vabbè, perché entrare nella linea 5 della metropolitana? Ma allora, intanto per dare un'idea anche agli ascoltatori delle dimensioni di cui stiamo parlando, noi sulla rete ferroviaria stiamo facendo investimenti dell'ordine di 4-5 miliardi di euro all'anno, nei prossimi 10 anni abbiamo 57 miliardi di investimenti, di cui 34 sui servizi regionali e 23 sull'alta velocità, quindi stiamo confrontando 65 milioni con 57 miliardi. In realtà il problema che ha l'Italia è che se mettiamo insieme tutte le linee metropolitane che abbiamo in Italia, quindi Torino, Milano, Genova, Brescia, Roma e Napoli, abbiamo 234 chilometri di linee metropolitane. Niente. Solo Madrid ha 290 chilometri di linee metropolitane. Ora, forse abbiamo un piccolo problema di gap di infrastrutture in ambito metropolitano, che sono servizi su ferro tanto quanto quelli intercity. Ora, Ferrovie è il più importante realizzatore di infrastrutture su ferro, quindi di tipo ferroviario del paese. Forse il fatto che Ferrovie dia una mano a superare questo gap che c'è nelle città metropolitane, considerando che dal punto di vista antropologico la gente sta andando a vivere dentro le città e quindi l'infrastrutturazione delle metropoli è fondamentale, credo che sia importante. Ingegnere, mi dica solo una cosa, poi l'arriveremo a ospite dopo il GR24. Questo vuol dire che entrerete anche in altre società che fanno metropolitane nel paese, sì o no? La risposta è sì, ma siamo entrati in M5 non per gestire il pezzo di M5 esistente, ma per dare una mano per il prolungamento verso Settimo Milanese, verso Monza. Non ho capito, però diciamo, ed è questo nel vostro piano c'è l'ingresso possibile anche in altre linee di altre città. La nostra idea è quella di proporre ai comuni di costruire nuove linee metropolitane, poi anche tramite società nuove, non necessariamente tramite società. Dopo il GR24 le chiederò della dorsale adriatica, per non chiedere agli ascoltatori, dell'alta velocità sia verso il sud che verso Venezia e Trieste e dell'investimento regionale. 349-238-6666 per sms e whatsapp GR24. Musei a cielo aperto, gioielli dell'arte e della natura da vivere, ma anche da preservare. Da Firenze a Venezia, da Roma alle Cinque Terre, ci si interroga. Come conciliare il turismo di massa con il decoro e la sicurezza del territorio e delle opere d'arte? Venezia pensa al numero chiuso, Firenze bagna le strade. E gli altri nel mondo, che fanno? Un viaggio tra arte, natura e rispetto, in onda dal 26 al 30 giugno nel GR delle 7. E un reportage dedicato sabato 1 luglio alle 7:15 su Radio 24 e su radio24.it. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Das antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6:30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7:20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. State ascoltando un programma offerto da... Dottor J e Mister I, trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Focus Economia. Siamo molto soddisfatti dei primi incontri che abbiamo avuto, che fanno prevedere una convergenza sulla dichiarazione finale. Riflettiamo sul ruolo sociale delle infrastrutture. In Italia questo è particolarmente comprensibile, si pensi solo al tema dello sviluppo del Mezzogiorno, che ha un deficit di infrastrutture, e anche al tema delle nostre isole, ovviamente la Sardegna, la Sicilia, e quindi in primis. Per questo è così importante riflettere anche a livello mondiale, e questo riguarda anche il tema degli uguali diritti di mobilità tra le aree urbane e le aree periferiche, per esempio, tra le aree interne, le aree invece che sono collegate più facilmente alle città. Quindi c'è un tema di diritti sociali, di diritti alla mobilità. Abbiamo voluto accelerare molto su questo, per recuperare questo deficit di connessioni. Pensate che abbiamo programmato i 400 milioni di euro sulla Ionica, la ferrovia Ionica. L'ultimo intervento l'aveva fatto il Conte di Cavour. Sapete il programma di accelerazione sull'alta velocità a Napoli-Bari. Io tra pochi giorni andrò a inaugurare un pezzo della Napoli-Bari, che quindi non è una promessa, è una realtà. I treni si fermano già alla stazione di Afragola e abbiamo aperto i cantieri un po' anche davvero del Frecciarossa nel sud, il Frecciarossa per Bari, il Frecciarossa per Potenza, per Taranto, il Frecciarossa per Caserta, Foggia, adesso nel Cilento. Così il ministro Graziano Del Rio poco prima dell'inizio dei lavori del G7, anche dei trasporti a Cagliari, anche perché si parlava della capacità di unire tutto il paese, il deficit di infrastrutture che c'è in alcune aree. Lo dico perché è ancora in collegamento con noi l'amministratore delegato alle Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini. E in qualche modo il ministro ingegnere Mazzoncini ha risposto alla parte, diciamo, che mi sta arrivando come messaggi sul sud. Ancora un attimo però, ingegnere, perché ho il nostro Andrea Ferro che ci aggiorna sugli ultimi sviluppi del G7 proprio sulle infrastrutture a Cagliari, in collegamento con noi da Cagliari. Buonasera Andrea. Sì, buonasera Sebastiano, mi dà la linea mentre il ministro Graziano Del Rio sta parlando qui nel locale accanto alla mia postazione e sta sostanzialmente ricapitolando la dichiarazione finale dei ministri del G7 dei trasporti che sta volgendo al termine. Sostanzialmente quanto abbiamo sentito poco fa nell'intervista è stato confermato, quindi c'è una condivisione della necessità di porre al centro il valore sociale delle infrastrutture come opportunità e problematicità per le comunità. Pensiamo quanto è stata problematica la realizzazione, lo è tuttora, di determinate grandi opere sul nostro territorio, ma questo non riguarda necessariamente solo l'Italia. Ma la seconda parte interessante che sta illustrando in questo momento riguarda un documento sull'auto a guida connessa automatizzata, cioè sulla necessità insomma di mettersi al pari con la tecnologia delle case automobilistiche e quindi realizzare quelle infrastrutture, quelle smart road che consentano la circolazione di questi veicoli a guida auto o comunque assistita, come peraltro avviene già, della serie le auto per viaggiare. In questi termini devono avere infrastrutture con le quali dialogare. Chiaramente il gap da recuperare è notevole, però come abbiamo sentito anche nel corso di altre trasmissioni, di altri interventi anche nel corso di Focus Economia, nel giro di 10 anni dovremo vedere circolare anche le auto a guida autonoma sulle nostre strade. Molto dipenderà però da come ci arriveremo, perché non sarà un passaggio automatico dalla notte al giorno. Perché Andrea, fondamentale anche le auto. Io vorrei iniziare ad avere l'alta velocità e le autostrade normali. Poi quando arriverà l'auto guida autonoma, molto volentieri. Grazie intanto Andrea Ferro in collegamento con noi da Cagliari. Allora, ingegnere Mazzoncini, ripercorriamo un po'. Abbiamo sentito il ministro Del Rio parlare della dorsale ionica, su cui molti mi stanno interrogando, della Napoli-Bari, insomma l'investimento al sud sull'alta velocità, e poi arriviamo invece alla parte che riguarda anche il nord-est. Allora, sicuramente gli investimenti al sud sono ripresi in maniera molto importante. Fondamentalmente direi che sono tre gli investimenti. Uno è la Napoli-Bari, che è molto importante, sono già stati assegnati i primi due lotti, quindi sono già aperti i cantieri. Appunto, avete sentito il ministro Del Rio dire che andrà a inaugurare l'apertura dei cantieri proprio i prossimi giorni da parte di RFI. Tra l'altro ricordo che sulla Napoli-Bari siamo riusciti a partire veloci perché il nostro amministratore delegato di RFI, Maurizio Gentile, è commissario dell'opera e questo ha consentito di snellire tutte le procedure amministrative. È una linea che consentirà di stringere fortemente i tempi che ci sono oggi tra Napoli e Bari. Ricordo che abbiamo fatto partire proprio in questo mese di giugno un freccia tra Bari e Roma che riesce a stare poco sopra le 3:30. È chiaro che un'infrastruttura nuova di questo genere consentirà anche Bari di avere un collegamento per Roma come Milano in 3 ore, e soprattutto anche di potenziare tutti i servizi regionali. L'altro grosso investimento in Sicilia, dove c'è fondamentalmente l'intera rete tra Palermo, Catania e Messina ricostruire, mm-hmm. In particolare ovviamente il collegamento Catania-Palermo, che è previsto anche questo ad alta velocità, e stiamo parlando di 6-7 miliardi di investimenti sulla Napoli-Bari, altrettanti in Sicilia, e poi tutta una serie di investimenti che sono in parte quelli che ha accennato anche il Ministro, quindi sulla ristrutturazione della Ionica, comunque c'è tutto il corridoio tra Salerno e Reggio Calabria che va ristrutturato, e l'idea di portarlo a 200 km orari, come stiamo facendo sull'Adriatica. Prima mi chiedeva dell'Adriatica, sì. L'Adriatica di fatto è l'esempio di quello che bisognerà fare poi anche sulla Tirrenica, cioè abbiamo scelto di avere una linea a 200 km orari, una linea che però è in grado anche di trasportare merci dal porto di Taranto e quindi con una sagoma, voglio dire, per i treni, si chiama picciottante in termini tecnici, però vuol dire avere sagome che possono consentire ai camion di viaggiare sul treno con carichi assiali adatti, e soprattutto è una linea che, quando completeremo gli ultimi 30 km di raddoppio in Molise tra Termoli e Lesina, dove c'è una tematica da risolvere sull'attraversamento di Campomarino, quindi quanto stare sul mare o lontani dal mare, riusciremo a ridurre di un'ora il collegamento Bologna-Lecce. Stiamo parlando di interventi che completiamo entro il 2018, quindi interventi tecnologici. Però mi scusi Mazzoncini, se ho ben capito, poi adesso ho un altro traffico ed ho l'ultima domanda per lei, che è l'alta velocità. L'alta velocità in senso stretto, quella diciamo da 300 km all'ora e anche di più adesso sulla Milano-Bologna-Roma, non arriverà, cioè si fermerà dove? Poi avrete l'alta, quella che chiamate alta capacità, e cioè treni che viaggiano comunque a 200 km all'ora e però hanno anche un'alta capacità ferroviaria. Cioè, vorrei capire, la T dell'alta velocità sarà Torino-Venezia e Milano-Salerno, Milano-Reggio Calabria come alta velocità, come nuovi binari? Come alta velocità, premesso che la progettazione della Salerno-Reggio Calabria è ancora da fare, quindi le posso dare oggi la mia opinione, è che l'alta velocità arriverà fino a Bari, quindi arriverà fino a Napoli e poi Napoli-Bari. E da Salerno a Reggio Calabria andremo a 200 km orari. Come andremo a 200 km orari tra Venezia e Trieste? Quindi sulla T, prima mi parlava della T, avremo l'alta velocità 300 km orari da Torino fino a Venezia. Oggi è già completato il pezzo fino a Brescia, è completato il Venezia Mestre. Entro 6 anni saranno completati 2 cantieri in parallelo della Brescia-Verona e della Verona-Vicenza, e quindi avremo tutta quella T a 300 km orari, mentre il collegamento tra Venezia e Trieste, nell'ambito della spending review, è stato portato a 200 km orari con un risparmio da 7 miliardi a 2 miliardi, quindi e con tempi molto molto evidentemente più veloci di realizzazione, e con una linea che comunque consentirà di ridurre di un'ora il tempo di percorrenza tra Venezia e Trieste. Ovviamente gli investimenti si fanno in relazione anche alla domanda di traffico, e quindi è abbastanza logico che ci sono delle assi del paese. Io mi accontenterei tra virgolette anche dei 200 km allora, però quello che lo dico agli ascoltatori, che è importante distinguere tra investimento alta velocità pura e invece una alta capacità con treni che viaggiano a 200 km all'ora per i passeggeri, non certo per le merci, in altre tratte, e appunto lei le ricordava. Io nel ringraziare, devo però chiedere un'ultima cosa, Mazzoncini, non possiamo fare un'intera puntata sul trasporto locale, ma il trasporto locale, al di là degli accordi con le regioni che delle volte sono adempienti, delle volte meno adempienti, ma lo potenziate come qualità anche? Devo dire che chi viaggia in treno, io lo faccio abbastanza, su alcune linee locali già sono arrivati nuovi vagoni, nuove vetture, perché lì il tema non è tanto la velocità, ma è soprattutto la qualità, diciamo, della vettura. Siamo Barisoni, stiamo facendo il più gigantesco investimento degli ultimi 50 anni sui treni regionali. L'anno scorso è stata assegnata una gara a Trenitalia di 5 miliardi di euro per treni nuovi, e dal 2019 iniziano le consegne dei treni nuovi, 2 piani e monopiani elettrificati, e sostituiremo il 50% di tutti i treni regionali italiani. Il 20% dei treni è stato sostituito dal 2014 al 2016, e il 30% residuo, che sono treni comunque piuttosto giovani, vanno tutti a revamping. Quindi l'obiettivo è fare in modo che tutta l'intera flotta di Trenitalia, dei servizi regionali, sia a livelli altissimi. E per far questo stiamo fatelo anche al sud, dove le carrozze invece non è che proprio lo stiamo facendo per tutta Italia, e stiamo raccogliendo soldi. Lei parlava all'inizio del bond. Oggi è per noi una grandissima giornata, perché abbiamo messo sul mercato 700 milioni di euro di bond, questa è la nostra aspettativa, abbiamo avuto richieste per quasi 2 miliardi, 1 miliardo 950, a tassi bassissimi, vuol dire a tassi, ai tassi a cui oggi la gente può comprare i BTP di Stato, e alla fine siamo andati a 1 miliardo di finanziamenti, sono i soldi con cui ci approvvigioniamo per comprare appunto i treni regionali nuovi, quindi il grosso di questi investimenti, di questi bond che domani leggerete sui giornali, servono per comprare l'acquisto dei regionali, treni regionali anche al sud, anche al sud, anche al sud. Allora, non capisco l'obiezione di un ascoltatore che mi dice il Garda è il terzo polo turistico italiano, la TAV lo rovinerà per guadagnare 14 minuti, ma perché deve rovinare il Garda? Io voglio la TAV velocità anche sulla Milano-Venezia, ok? Perché non guadagni 14 minuti da Milano, tuttora ce ne metti 2 ore e 20, 2 ore e 40 da Milano a Venezia, abbiate pazienza. Per cui si arriverà a guadagnare almeno un'ora, immagino, Mazzoncini, con l'alta velocità tra Milano e Venezia, e non mi dite che non serve per il turismo, oltre che per gli italiani per motivi di lavoro, avere un'alta velocità tra Milano e Venezia, perché a questo punto mando direttamente l'ascoltatore a quel paese. Grazie all'ingegnere Mazzoncini, e invece ringrazio per averci aggiunto in collegamento anche Aldo Bonomi, perché adesso parliamo del contributo delle varie regioni macro aree al PIL italiano. Buonasera anche al sociologo Aldo Bonomi di Aste, mi sente Bonomi? Buonasera a voi, sì, la ecco, adesso ci colleghiamo tra quello che ha detto Mazzoncini sugli investimenti infrastrutturali con i dati che oggi ha diffuso l'Istat su chi ha contribuito di più alla crescita del PIL l'anno scorso. 349-238-6666 per sms e whatsapp, un minuto di pazienza. Focus Economia. Dunque, l'Istat ci dice oggi che nel 2016 il Mezzogiorno è tornato ad allinearsi alla crescita italiana, più 0,9%, il Nord-Est è quella regione che tira di più la macroarea, più 1,2%, Nord-Ovest più 0,8%, Centro un po' più al palo, più 0,7%. Dati che hanno anche un contraltare sull'occupazione, l'aumento dell'occupazione maggiore è stato nel Nord-Est, più 1,8%, segue il Mezzogiorno, più 1,6%, nelle regioni del centro la crescita dell'occupazione è stata solo dello 0,6%, è chiaro che poi resta lo scarto tra accumulato a maggior ragione in questi anni tra Mezzogiorno e Nord del paese. Non posso più rispondere sull'alta velocità, so che costa il biglietto, ma possiamo dire che ogni tanto qualcosa di buono capita in questo paese, l'alta velocità laddove è presente ha cambiato il modo di lavorare, di muoversi e anche di organizzare il lavoro, diciamo, tra Milano e Roma. Come sa benissimo l'Italia. Comunque, Aldo Bonomi, un commento suo a questi dati. Io la cosa positiva che vedo è che si riduce lo scarto tra chi più contribuisce e corre, tra virgolette, per quanto non ancora in maniera soddisfacente, e chi era fermo al palo. Beh, direi che soprattutto analizzando e dando una valutazione su quello che è avvenuto nella punta, diciamo così, alta rispetto all'Istat, che è il Nord-Est. Bisogna tenere in conto, ma il ragionamento riguarda un po' tutto il paese, ma soprattutto al Nord-Est siamo passati da una prima fase di proliferazione che lei Barisoni conosce bene, nel senso che era quello che io ho chiamato il capitalismo molecolare, in cui tutti facevano imprese, manifatture, eccetera, che ha impattato con la globalizzazione, usiamo questo termine ormai abusatissimo, però e ha la prima volta reagito con quello che ho chiamato una globalizzazione opportunista, nel senso che ha cercato, ci ricordiamo tutti quando andava a Timisoara, di delocalizzare cercando il basso costo del lavoro. Poi ovviamente è arrivata la gelata della globalizzazione selettiva che sta assieme a quello che abbiamo chiamato crisi. E quindi io credo che nel Nord-Est sono dati che hanno tutti cominciato a riprendere le misure di questa globalizzazione selettiva. Ricordiamo però, ovviamente, che questa globalizzazione selettiva ha prodotto una selezione darwiniana anche dentro le imprese. Dopodiché oggi abbiamo che hanno cominciato a prendere le misure, di questa globalizzazione selettiva, dimenticando la globalizzazione opportunista. E quindi il problema non è delocalizzare, ma riportare una serie di attività manifatturiere e di filiere sul territorio, ovviamente collegando il 20% di imprese che vanno bene, che hanno il problema della industria 4.0, dell'innovazione tecnologica, cercando di far da traino per quel 60% che è in mezzo al guado. E ovviamente credo che rimanga ancora aperta la questione, ma questo per tutto il paese, di quel 20% che non ce l'ha fatta. Non dobbiamo dimenticare questo. Però dentro questo incomincia a venire avanti quello che io chiamo una specie di capitalismo intermedio, cioè un capitalismo in cui le punte alte hanno incominciato a capire che nel nostro capitalismo di territorio devono fare da traino di quello che è il ciclo della filiera. Senza far questo, senza creare piattaforme produttive da questo punto di vista, ne cito solo una che non riguarda il nord-est, ma basta pensare alla Valle dei Motori dell'Emilia Romagna o della Via Emilia, in cui si mette assieme università, imprese avanzate, imprese diffuse nel ciclo ovviamente di una subfornitura strategica di qualità, e vale anche per il nord-est. E non è retorica dire che se si smonta una BMW, molte di quelle componenti sono componenti che vengono prodotte a nord-est rispetto a questo, molte di quelle componenti. Siamo arrivati a questo. Ovviamente questo fa ben sperare, non credo che ovviamente bisogna farsi prendere dall'euforia. Credo che il problema sia se riusciamo a fare questo passaggio, a portare dentro la globalizzazione selettiva e la crisi, ovviamente parte di questo, e questo forse certo. Il paese ce la può fare. Mi pare che questo allora, sia la valutazione e il commento sui dati Istat che lei ha dato. No, la ringrazio molto anche per la sintesi, la chiarezza. Torneremo a parlare, perché vi dico già che la nostra intenzione a settembre è compiere anche un viaggio nei territori, perché quello che diceva Bonomi è la riscoperta del territorio, ma non più come localismo, ma come insieme di competenze in cui tu torni a riportare alcune produzioni, diciamo, sul territorio, perché hai la filiera del valore con cui riesci a competere anche se non hai le multinazionali, perché hai tanti soggetti che però stanno assieme, non si fanno più concorrenza spietata all'interno dei territori, ma usano competenze e manodopera e anche di grandissima qualificazione per concorrere assieme, per cui tu hai tutta, diciamo, la rimodulazione di quelli che una volta si chiamavano distretti industriali. Prima nei distretti ci si faceva molta concorrenza, adesso si sta capendo che più dividi il lavoro in una filiera del valore, più riesci anche a affrontare la concorrenza internazionale, e i dati per ora ce lo dimostrano, per quanto insufficienti. Grazie Aldo Bonomi. E poi i territori italiani sono pieni di competenze che non vai a trovare facilmente all'estero. Grazie ad Aldo Bonomi. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.